giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La mini vacanza di Pasqua, tante le comitive di turisti che hanno invaso le località più conosciute della regione, ma anche quelle più originali e caratteristiche, alberghi occupati per oltre la metà e altri arrivi si attendono per il last minute. Respinta la richiesta avanzata da Pubblica Accusa e Parti Civili di una nuova perizia psichiatrica su Alejandro Augusto Meran. Restano validi gli accertamenti effettuati nel primo grado di giudizio. La sentenza d'appello potrebbe uscire il 28 aprile. Nel segno della continuità, il secondo mandato di Massimiliano Fedriga alla guida della regione. Ieri la proclamazione degli eletti. A Udine, in vista del ballottaggio, i due concorrenti alla carica di sindaco, Fontanini e De Toni, cercano di allargare i loro bacini elettorali. De Toni stringe un accordo con Marchiol. Riscontrato un caso di legionella nel Sanvitese, ad esserne colpito un uomo di 45 anni che ha riportato una polmonite bilaterale e ricoverato a Udine. Soccorso alpino in azione in piena notte per recuperare un cinquantenne precipitato dal Monte Faeit nel Gemonese. Ha riportato diverse contusioni, una decina gli uomini intervenuti, impiegato anche l'elicottero. Stasera nelle chiese le solenni veglie pasquali e oggi anche il giorno dei preparativi del pranzo di Pasqua. Nel giornale radio una ricetta speciale firmata da Antonia Klugman che coniuga qualità, genuinità e risparmio. Vigilanza rinforzata nei boschi della regione in vista delle scampagnate del lunedì in Albis. Il corpo forestale impegnato nella prevenzione degli incendi, resi possibili anche dalla prolungata siccità. La tragedia delle malattie e delle morti causate dall'amianto in un film, L'uomo senza colpe, del monfalconese Ivan Gergolet, in proiezione nelle sale in questi giorni. Abbiamo intervistato il regista. Per lo sport, giornata densa di appuntamenti, comincia l'Udinese che scende in campo al Friuli contro il Monza alle 12.30. Per la Serie C nel pomeriggio giocano Pordenone e Triestina e in serata il basket sul parquet APU Udine e Gesteco Cividale. In piscina anche le squadre maschile e femminile di Pallanuoto Trieste. A Pordenone i classici tornei di Pasqua con 5.000 giovani da tutta Europa, Stati Uniti, Canada ed Egitto impegnati fino a lunedì per il trofeo Cornacchia di pallavolo e il Gallini di calcio. È sabato 8 aprile 2023, sono le 7:20 minuti e 45 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo, il cielo è da variabile a nuvoloso sulla regione. Ecco le temperature registrate alle 6. A Trieste 8 gradi, a Pordenone 6, a Udine 5,5, a Gorizia 5. A Tolmezzo 3 gradi, a Forni di Sopra e a Tarvisio 2,5 gradi, Piancavallo e Sappada -2, sullo Zoncolan e sul Monte Lussari -1 grado, a Grado 8, a Lignano 5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: al mattino cielo da variabile a nuvoloso, dal pomeriggio coperto con piogge sparse, in genere deboli o localmente moderate, più frequenti sui monti dove la quota neve sarà oltre 1200 metri, in calo anche sotto i 1000 metri verso sera, quando sulla costa soffierà bora moderata. Città e borghi pieni di turisti, alberghi e ristoranti al lavoro a ritmo sostenuto, un clima che si annuncia favorevole. Il ponte pasquale diventa una mini vacanza per chi si prende una pausa dal lavoro, ma anche una boccata d'ossigeno per il settore dell'ospitalità. E i primi dati confermano l'ottimismo degli addetti. C'è una netta ripresa in alberghi e ristoranti in Friuli Venezia Giulia nel periodo di Pasqua, lo sostiene Federalberghi con la presidente Paola Schneider, che riferisce come gli alberghi siano occupati al 60% e si spera negli arrivi dell'ultimo minuto. Le vacanze di Pasqua portano sempre l'incognita del meteo, che negli ultimi giorni è diventato variabile e incerto. Fino all'ultimo sarà difficile sapere se le persone preferiranno andare al mare o godersi le ultime nevi. Molte prenotazioni potrebbero essere effettuate a ridosso delle feste, dicono molti operatori. Si tratta di una condizione generale, sia che si guardi ai monti che al mare, dove non tutti gli alberghi ancora sono aperti. Gli stranieri, in particolare i tedeschi, stanno arrivando non a frotte, ma la tendenza c'è, continua la Schneider, sufficientemente ottimista anche per quel che si profila oltre Pasqua. Le strutture alberghiere vivono questo inizio di stagione come un assaggio di quello che verrà, e quindi il senso sentiment resta quello dell'attesa per una presenza ancora più significativa di turisti, in particolare degli stranieri. I ristoranti va meglio nonostante i prezzi aumentati per il rincaro delle materie. Anche per il ponte del 25 aprile e del 1 maggio le cose si stanno muovendo nella direzione giusta, aggiunge la Snyder. Le prenotazioni in genere sono per 3-4 giorni, tuttavia il 2023 sembra aver portato un vento favorevole per una generale netta ripresa di tutto il comparto legato all'alberghiero. Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Processo di secondo grado contro Alejandro Augusto Meran. Non sarà svolta nessuna nuova perizia psichiatrica nei confronti dell'uomo che il 4 ottobre del 2019 nella questura di Trieste uccise due poliziotti. Il giudice della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Trieste respinge la richiesta di nuova perizia psichiatrica sull'imputato Alejandro Augusto Meran. L'uomo, che in primo grado era stato assolto per vizio totale di mente, è l'autore dell'omicidio dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego in questura a Trieste. Sul volto dei genitori di quest'ultimo, Fabio e Monica, incredulità e delusione. Siamo spiazzati veramente, non pensavo che rigettavano una richiesta legittima di una nuova perizia. Vabbè, i giudici sono loro. La mattina in aula il PM Carlo Maria Zampi aveva chiesto una nuova perizia che doveva essere svolta da almeno tre professori universitari, persone, ha dichiarato Zampi, scelte da ambienti estranei alla psichiatria triestina e a certi condizionamenti ideologici. È deluso? Ma no, io non sono né deluso né contento, insomma, io ho fatto il dovere mio, sto tranquillo con la coscienza mia. Insiste sulla detenzione illegittima al carcere di Verona l'avvocato di Meran, Paolo Bevilacqua. L'uomo sarebbe dovuto essere trasferito in una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, gli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Per Meran si attende il futuro che l'attuale presente, cioè l'attesa di essere messo in una REMS. Pare che questo avvenga, dovrebbe avvenire nell'arco di una settimana. A Trieste? No, temo di no. Credo che andrà in una REMS provvisoria in Liguria. Il processo intanto prosegue, prossima udienza il 28 aprile, a rassicurare i familiari delle vittime Walter Biscotti, avvocato dell'Associazione Feriti e Vittime della Criminalità, convinto che una riforma della sentenza sia ancora possibile. La Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto che probabilmente tutte le consulenze che sono agli atti, sia quelle disposte dal GIP, sia quelle disposte dal Tribunale, sia quelle disposte dalle parti, siano sufficienti affinché la Corte d'Assise d'Appello lo possa prendere una decisione. Quindi io non la leggo in negativo come a un primo impatto potrebbe sembrare. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Pienamente in carica da ieri il rieletto presidente Fedriga e sempre ieri proclamati i consiglieri regionali. Continuità alla parola d'ordine del secondo mandato del capo dell'esecutivo. Garantire la continuità del lavoro svolto negli ultimi 5 anni puntando ad una visione di più ampio respiro rispetto ad un'unica legislatura. È questo l'impegno di Massimiliano Fedriga, neopresidente del Friuli Venezia Giulia, impegno preso subito dopo essersi insediato a Palazzo della Regione a Trieste. La prossima settimana chiamerò i partiti di maggioranza così da fare una discussione insieme e dopo queste consultazioni prenderò le decisioni per formare il nuovo esecutivo regionale. Quali saranno le priorità? Abbiamo tante priorità, penso, sul tavolo, dal lavoro, penso a mettere a terra la riforma sanitaria, la parte infrastrutturale, ma ce ne sono molte. Fortunatamente abbiamo alle spalle un lavoro che è stato costruito, penso, in modo sostanzioso e quindi vogliamo andare in continuità con quella serietà, spero, che i cittadini abbiano percepito, ha contraddistinto gli ultimi 5 anni. Intanto stamane a Udine l'ufficio elettorale ha proclamato la composizione del nuovo consiglio regionale, nel quale ci sarà anche il secondo candidato eletto consigliere, Massimo Moretuzzo. Per la maggioranza, 9 seggi alla Lega, con Barbara Zilli eletta sia a Tolmezzo che a Udine. 8 consiglieri alla lista Fedriga presidente, 8 a Fratelli d'Italia, 3 a Forza Italia. 18 i seggi è dell'opposizione, con il PD, che è il maggior gruppo del Consiglio regionale, con 10 consiglieri. Compongono la minoranza anche i 4 seggi per il Patto per l'Autonomia e 1 a testa per il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Open Sinistra FVG e Slovenska Skupnost. Restano fuori dal Consiglio regionale il Terzo Polo con Maran e Insieme Liberi con Tripoli, che già ieri ha chiesto l'accesso ai verbali per poter valutare, entro 30 giorni dalle elezioni, la possibilità di fare un ricorso al TAR e chiedere un eventuale riconteggio delle schede che potrebbero cambiare il quadro nella ripartizione dei seggi nella minoranza. Trieste, Baciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. A Udine, accordo fatto fra De Toni e Marchiol in vista del ballottaggio di domenica 16 e lunedì 17 aprile per le comunali. Nessuna intesa fra Fontanini e Salmè. Un progetto di rivitalizzazione urbana per quartiere, verde pubblico e piste ciclabili invece di spazi ciclopedonali. Su questi punti comuni si fonde il patto elettorale tra Ivano Marchiol e il candidato al ballottaggio del centrosinistra, Alberto Felice De Toni. Un accordo, non un apparentamento formale in lista e quindi sulla scheda. La coalizione originaria dell'ex rettore non dovrà dunque rinunciare ad alcun seggio. I due rappresentanti di Spazio Udine, uno di questi è lo stesso Marchiol, daranno manforte in consiglio comunale ai consiglieri della quota politica De Toni. Ancora troppo presto per parlare di ruoli e cariche, indicano i due, ma nell'accordo firmato c'è scritto che le deleghe inerenti, i lavori pubblici, la mobilità e la partecipazione saranno in capo alla coalizione che ha portato alla candidatura di Marchiol. Nell'altro schieramento, saltata ogni trattativa tra il sindaco uscente, Pietro Fontanini, e Stefano Salmè. Il neoeletto consigliere di Liberi Elettori, Io Amo Udine, ha invitato i suoi a disertare le urne. Al primo turno, poco più di 2.000 i voti raccolti dalla lista antisistema. Fontanini si dice certo che molti dei componenti della parte politica di Salmè voteranno per lui al ballottaggio. Stiamo lavorando, ci dice mentre incontra i cittadini in Borgo Stazione, per recuperare gli astensionisti, ma anche le quasi 1.300 schede tra bianche e nulle. Varrebbero da sole il 3% se l'affluenza rimanesse la stessa anche al secondo turno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato ricoverato in terapia intensiva a Udine un 45enne del San Vitese colpito da polmonite bilaterale da legionella. Già ricoverato a Pordenone, l'uomo ha dovuto essere trasferito a Udine a causa di un aggravamento. Al momento si esclude che il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro. Secondo i dati dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, sono una ventina le persone ricoverate per polmonite da legionella ogni anno. Le legionelle, batteri che amano gli ambienti acquatici, si annidano soprattutto in edifici rimasti a lungo chiusi. Impianti idrici, docce, rubinetti incrostati, vasche idromassaggio, sciacquoni per WC possono diffondere il microorganismo. La legionellosi è in genere acquisita per via respiratoria mediante aerosol di microgoccioline d'acqua. I sintomi possono essere febbre, perdita di appetito, letargia, dolori muscolari, confusioni, tosse e polmonite. Fra le misure per prevenire la legionella c'è quella di svuotare e pulire serbatoi di accumulo dell'acqua almeno due volte l'anno, oltre a mantenere docce e rubinetti privi di incrostazioni. Un uomo di 50 anni è stato soccorso questa notte fra le 23 e le 3 del mattino dopo essere caduto dalla cima del Monte Faeit nel Gemonese per una quindicina di metri su un salto di roccia. L'uomo si trovava assieme ad alcuni amici nei pressi di una panchina da picnic che si trova sulla cima quando deve essersi allontanato cadendo. A soccorrerlo 10 tecnici della stazione di Udine del soccorso alpino assieme ai vigili del fuoco, elisoccorso regionale notturno, atterrato a Gemona e anche i sanitari dell'ambulanza. I tecnici hanno accompagnato gli infermieri a piedi lungo il sentiero fino al punto della caduta, dove l'uomo con più traumi è stato stabilizzato e imbarellato e riportato in cima con le corde. Da qui è stato condotto all'ambulanza per il ricovero a Udine. Per commemorare il 78esimo anniversario della barbara strage compiuta dalle squadre nazifasciste delle SS di Hitler, che il 9 aprile 1945 trucidarono 29 partigiani garibaldini osovani alle carceri di Via Spalato a Udine, l'Associazione Nazionale Partigiani terrà una cerimonia di commemorazione per rendere onore ai patrioti caduti per libertà e per l'Italia alle 10.30. Il Comune di Trieste informa che è stata avviata la procedura di selezione pubblica per esami per 10 posti a tempo pieno e indeterminato di funzionario specialista amministrativo contabile per la categoria D. L'avviso di selezione, con i requisiti specifici e generici richiesti per l'accesso, oltre alle modalità di compilazione e presentazione della domanda, è scaricabile dal sito internet del Comune. Le domande di partecipazione alla selezione vanno inviate solo in via telematica entro le 12 del prossimo 5 maggio. Inizia a Pordenone la raccolta firme organizzata dall'Associazione Luca Coscioni per promuovere la proposta di legge regionale Liberi Subito, volta a garantire tempi certi per l'iter di autorizzazione all'accesso all'aiuto medico alla morte volontaria. Un diritto, spiegano, già garantito da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Le sottoscrizioni da stamattina in piazza Cavour a Pordenone. Oggi per i cattolici è il Sabato Santo. Nelle chiese si svolgerà la veglia pasquale nell'attesa della resurrezione di Cristo. Alla mezzanotte saranno sciolte le campane. I rintocchi in segno di gioia segneranno la celebrazione più importante della cristianità nel segno del rinnovamento e della speranza. Domani dunque Pasqua e oggi la giornata in cui si mette a punto il menù del pranzo e si acquistano gli ingredienti giusti. Ma come destreggiarsi fra il desiderio di fare bella figura, mettere in tavola portate all'altezza dell'occasione degli ospiti e, visto il momento, l'esigenza di non spendere troppo? E allora, ecco alcuni consigli su come conciliare economia e qualità in cucina da Antonia Klugman, chef stellata e popolare star televisiva. Io suggerisco una pasta fresca, un raviolo ripieno di ricotta e erbe in brodo di asparagi. Un brodo fatto con le bucce, le pelli e le parti più basse degli asparagi bianchi, acqua in ebollizione, gli asparagi ritagli all'interno. Quando si prende l'ebollizione si abbassa il fuoco e si cucina coperto questo brodo proprio a fiamma bassissima un quarto d'ora. Si filtra e lo si tiene poi per il giorno di Pasqua. La pasta fresca consiglio di farla riposare un pochettino prima di lavorarla e di base io uso 500 grammi di farina 00 e metà del peso della farina di uova, usando sia i tuorli che le uova intere, quindi due uova intere per circa un chilo di farina e poi tutto quello che rimane del peso, quindi dei 500 grammi che sono la metà del chilo di tuorli. Lavoro la pasta, la lascio riposare. Per il ripieno invece io suggerisco una ricotta, io uso quella delle Valli del Natisone piuttosto che quella di altri produttori qui vicino, la lavoro con un po' di aglio sbollentato per togliergli la parte forte, schiacciato, e ci aggiungo del papavero, adesso è la stagione massima dei germogli di papavero, del confenon, lo si sbollenta in acqua salata, lo si raffredda un attimo in acqua e ghiaccio, oppure per chi preferisce lo si spadella direttamente con un po' di aglio e olio, e lo si trita finemente a coltello, non frullandolo, e lo si unisce alla ricotta e all'aglio schiacciato. Si formano i ravioli e si riscalda il brodo. Io consiglio di cucinare i ravioli separatamente rispetto al brodo. Si cucinano e poi si servono con il brodo caldo di asparagi. Per chi è fortunato e trova, consiglio anche un po' di silene, di sclopit tritato all'interno della ricotta oppure anche semplicemente aggiunto al brodo alla fine. 13ª edizione di Pascalia, rassegna di repertori corali di ogni epoca e stile che ripercorrono le tappe dell'ultima cena, della Via Crucis, della morte, della resurrezione di Cristo. A Trieste le voci del coro femminile Clara Schumann accompagneranno la messa della notte nella chiesa di San Pio X alle 21:30. Il gruppo vocale Città di San Vito sarà protagonista della messa vespertina nel Duomo di San Vito al Tagliamento che aprirà le celebrazioni pasquali alle 21. Lunedì di Pasquetta sarà la giornata delle scampagnate, dei picnic, delle grigliate nei boschi. A maggior ragione, a causa della prolungata siccità, il Corpo Forestale accentua la sorveglianza per prevenire gli incendi. Il pattugliamento antincendio boschivo comincia nel primo pomeriggio, nelle aree più a rischio, dove il bosco è ancora molto asciutto e secco. 5 le pattuglie attive quotidianamente per 8 ore sul territorio regionale, con mezzi allestiti per il pronto intervento e forestali in costante contatto radio con la sala operativa della Protezione Civile. Manuela Grigoletti, guardia del Corpo Forestale Regionale. Lo scopo è quello di andare a monitorare le strade forestali, le piste secondarie, laddove potrebbero verificarsi delle situazioni pericolose, magari anche latenti, e quindi noi dobbiamo essere pronti a intervenire. Un monitoraggio per prevenire incendi colposi e dolosi, purtroppo ancora diffusi, ma anche di origine naturale, da fulmini, in aumento coi cambiamenti climatici. L'antincendio boschivo per la prolungata siccità è ormai diventato una priorità e tutto il personale delle 30 stazioni forestali della regione è in allerta ormai da mesi. Germano Commessati, ispettore del Corpo Forestale Regionale. I giorni scorsi ci si immaginava di poter aumentare il livello di pericolo grave. Le piogge che si sono avute la scorsa settimana hanno fatto desistere questo passaggio. Siamo in allerta in modo ininterrotto dalla scorsa estate. Nel caso di un incendio come si procede? Dipende dall'orografia in cui c'è l'evento e dipende anche dalla disponibilità di personale che c'è a disposizione. Adesso il Corpo Forestale Regionale soffre di carenza di personale, anche se abbiamo in fase di ultimazione la formazione di 64 persone. Sul fronte mezzi, in caso di incendio boschivo, vista la carenza d'acqua, il Canadair è l'ultima opzione, l'elicottero della Protezione Civile la prima. Fondamentali i volontari, seppure carenti anche in questo settore, in queste giornate di scampagnate intanto l'invito per tutti è sempre alla massima prudenza. Limitarsi ad accendere fuochi solo nelle aree attrezzate, quindi non usare fiamme libere o fornelli in prossimità del bosco, perché anche situazioni apparentemente sicure in realtà possono mutare da un momento all'altro. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Da pochi giorni è nelle sale cinematografiche della regione il film L'uomo senza colpa, diretto dal monfalconese Ivan Gergolet, che racconta una storia ambientata nella città dei cantieri e incentrata sul fenomeno delle patologie amianto correlate. Il film si è aggiudicato il premio Ettore Scola per la regia al Festival di prodotti cinematografici e televisivi di Bari. Dallo stesso Gergolet una presentazione della sua opera. Io sono partito da un codice cinematografico del noir e del thriller, incarnando una storia di vendetta, cioè la storia di una donna, di una vedova dell'amianto che vuole farsi giustizia da sola dell'uomo che le considera responsabile della morte del marito. Ma naturalmente un conto è la fantasia di vendetta o la fantasia di punizione, l'altro conto invece è trovarsi davvero davanti a una persona, in quel caso ammalata, e quindi succedono molte cose nel suo mondo emotivo che la traghetteranno in un luogo emotivamente completamente diverso da quello da cui è partita. Non sempre la giustizia umana riesce ad arrivare in certe zone, e l'amianto in molti casi è una di queste, no? Nel senso che esistono casi di prescrizione, e soprattutto in questioni così complesse e stratificate, in cui c'è stato un uso sistemico, in cui è molto difficile attribuire delle responsabilità precise, allora in quel caso io mi sono chiesto cosa succede se metti la vittima e il carnefice, fra virgolette, nella stessa stanza, cioè quali sono le emozioni che li guideranno, quali sono i sentimenti che li faranno prendere certe scelte. E poi non volevo fare quello che giustamente si fa, che è, diciamo, fare un documentario, fare un film d'inchiesta, proprio perché volevo concentrarmi sull'intimità delle persone. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. In Serie A alle 12.30 allo Stadio Friuli l'Udinese riceverà il Monza. La squadra brianzola desidera dedicare l'eventuale vittoria al patron Silvio Berlusconi, ricoverato nell'ospedale milanese San Raffaele da alcuni giorni. Prevedibile dunque una forte determinazione dei lombardi a fare bene. Da parte sua, l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, nella conferenza stampa di ieri, ha detto che l'unico vero obiettivo è fare una grande prestazione individuale e di squadra. Sentiamolo. Adesso inizia, diciamo, un mini campionato, la parte finale di questo bellissimo percorso, che sono 10 partite, a cominciare col Monza, che è l'unico nostro vero obiettivo, cercare di fare, prima di tutto, fare una grande prestazione, quindi ripartire dalla prestazione a livello individuale e a livello di squadra, e poi cercare di vincere, perché è sempre stato il nostro obiettivo battere il Monza. Quindi dico che spero e mi auguro che i nostri tifosi ci siano sempre vicino, soprattutto in questo momento che conta, perché adesso conta la classifica, contano i punti più che mai, e sono sicuro che i nostri tifosi ci staranno vicini, seppur in un orario un po', lo sappiamo, non simpaticissimo, non comodissimo, però spero che lo stadio sia pieno e loro devono sapere che questa squadra vuole assolutamente fare queste 10 battaglie da protagonista. In Serie C oggi il Pordenone riceve nello stadio casalingo di Fontanafredda la Pro Vercelli alle 17.30. In classifica i neroverdi sono al terzo posto a 59 punti, sotto Feralpi Salò a 65 e Pro Sesto a 60. Sempre alle 17.30, fischio d'inizio di Feralpi Salò Triestina. La Triestina è penultima in classifica con 35 punti, sotto Albino Leffe che ne ha 37 e prima del fanalino di coda Piacenza 31 punti. Basket, in A1 la Pallacanestro Trieste gioca a Trento alle 19.30, in classifica i giuliani si piazzano al momento all'undicesimo posto. In A2 l'Old Wild West Udine giocherà in Lombardia contro Urania Milano alle 20.30. Va in Piemonte invece Cividale, che è sempre alle 20.30, scende sul parquet di Torino. Nella classifica di A2, Udine quarta e Cividale quinta. Pallanuoto maschile, nell'undicesima e terz'ultima giornata di ritorno del campionato di A1, la Pallanuoto Trieste ospita il quinto Genova alla Bruno Bianchi, con inizio alle 18.30, ingresso gratuito. L'obiettivo del quarto posto in classifica si sta dimostrando complesso da raggiungere a fronte dei 7 punti di vantaggio tenuti dalla squadra che precede gli Alabardati, ora al quinto, ma i risultati concretizzati finora hanno buone speranze per gli spareggi di qualificazione alla prossima edizione di Eurocup. Pallanuoto femminile, nella gara di ritorno dei quarti di finale playoff della Serie A1, Pallanuoto Trieste incontrerà fuori casa la Rapallo Pallanuoto con inizio alle 20. Nella finale di andata le alabardate si erano imposte per 10-6, ma per l'incontro odierno l'allenatore delle Orchette, Paolo Zizza, ha ricordato il supporto che il pubblico darà alle avversarie più forti in casa, sottolineando la necessità per le sue atlete di riuscire a mantenere concentrazione durante la partita. Sono arrivati alla Fiera di Pordenone i primi atleti, tutti minorenni, per il torneo Cornacchia di pallavolo e Gallini di calcio. 87 le squadre solo dall'estero, più decine di altre italiane. Le finali lunedì di Pasquetta e il ricavato in beneficenza. È il torneo di Pasqua più atteso. Pordenone ospita fino a lunedì 5.000 ragazze e ragazzi da tutta Europa, Stati Uniti, Canada ed Egitto. Solo dall'estero 87 squadre, ma un'unica passione per lo sport, la pallavolo, con il torneo Cornacchia, il più grande e competitivo d'Europa e uno dei più antichi al mondo. Questa è la 41esima edizione. E anche il calcio per il 25esimo trofeo Gallini, il più grande torneo giovanile d'Italia, reso unico dalla partecipazione di una squadra di professionistica per ogni girone di qualificazione. Tiziano Cornacchia, organizzatore e anima dell'evento. Abbiamo dei numeri veramente che ci fanno inorgoglire, perché tutto il mondo vuole venire a Pordenone ed è una grandissima soddisfazione. Riempiti 64 alberghi non solo a Pordenone ma anche Udine, Venezia e Treviso. A pranzo poi ci si ritrova tutti in fiera, perché l'obiettivo è stare insieme. A dare una mano 40 studenti in alternanza scuola-lavoro, tanti talent scout presenti e c'è anche uno stand per capire come ottenere borse di studio da $50.000 e volare in America. Questo torneo è anche una vetrina per futuri campioni di sport. La nazionale italiana campione del mondo in carica, ecco, di questa nazionale su 14 giocatori in rosa, 11 sono venuti più anni addirittura, sono passati a Cornacchia. Basta sapere il nostro testimone quest'anno, Alessandro Micheletto, Giannelli, il miglior paggiatore del mondo, anche lui premiato al torneo nostro per 2-3 anni. Gli incassi delle finali saranno devoluti all'associazione Via di Natale, fondata da Gallini per dare sostegno ai malati terminali del Crodi Aviano. Pordenone, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Una foto del presidente della regione e il titolo: si apre il Fedriga Bis. È il titolo di apertura del Piccolo di Trieste, altro a centropagina per il rigetto della richiesta di una nuova perizia psichiatrica su Augusto Meran. Vediamo alcuni richiami in prima di articoli all'interno del giornale. La chat segreta della polizia croata svela le violenze sui migranti. La galleria di Piazza Foraggi non riaprirà prima del il 15 giugno. Numeri record per il bike sharing, in arrivo 4 nuove ciclostazioni. Sfogliamo il giornale alle pagine 6 e 7, le foto dei consiglieri regionali della nuova legislatura cominciata ieri. L'insediamento di Fedriga, ieri la cerimonia di attribuzione delle funzioni, martedì primi incontri per comporre la giunta. Pagine 12 e 13, articolo di Stefano Giantin. Braccati nei boschi e respinti, trattamenti riservati ai migranti in una chat segreta di Zagabria. Secondo un'inchiesta di Lighthouse Reports, alti funzionari croati del Ministero dell'Interno, attraverso un gruppo WhatsApp tra il 2019 e il 2020, si scambiavano informazioni su quanto accadeva alla frontiera. L'apertura delle pagine cittadine. Agenti uccisi in questura, no della Corte d'Appello alla super perizia su Meran. E accanto il titolo: i genitori delle vittime, fra rabbia e amarezza, chiediamo giustizia per i nostri ragazzi. Qualche pagina successiva, cittadella dello sport di Barcola, il comune ha spedito 15 inviti per la gara da 4 milioni, padel, tennis, beach volley, basket, skateboard, fra progetto e lavori, traguardo a metà 2025. Il report dell'Istat, che registra un minimo storico di nuovi nati e un picco di anziani, apre il Messaggero Veneto nell'edizione di Udine, che sottolinea il 6,1 per mille dei bambini nati in regione rispetto agli 8,1 di 20 anni fa. Gorizia, l'area più fertile. Fotonotizia per l'insediamento di Fedriga, di cui vi abbiamo dato conto prima, e poi una seconda fotonotizia per la scomparsa del campione friulano di karate Roberto Ruberti. Le alleanze politiche per il ballottaggio del sindaco aprono il Gazzettino nell'edizione di Udine, che pubblica anche un reportage sulle prenotazioni ai ristoranti per il giorno di Pasqua. Soddisfacenti, seppur non eccezionali, a fronte invece di un boom di richieste negli agriturismi, tutto esaurito poi nelle baite in montagna. Spazio anche alle imprese in rete, che in Friuli registrano un aumento del 43%, e alle 4 sospensioni all'attività di un cantiere edile e di 3 pubblici esercizi a fronte dell'emersione di 45 lavoratori irregolari. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo apre con la notizia della scoperta della chat segreta della polizia croata, che conferma le violenze sui migranti braccati nei boschi e cacciati. Ma andiamo all'interno, l'apertura delle pagine sul capoluogo: tempio crematorio senza più ostacoli, c'è il sì al progetto ma i costi salgono, opera da 3 milioni di euro con ricorso al project financing, sorgerà nell'area del cimitero. Le proteste per i vuoti d'organico negli uffici giudiziari cittadini e alla biblioteca statale isontina non accennano a calare di intensità, anzi, i rinforzi promessi per la biblioteca non saneranno la situazione, sostengono i sindacati. Il comune di Gorizia ha avviato la procedura per affidare il servizio di mensa scolastica, previsti menù speciali per Halloween e Carnevale, l'appalto vale 2.300.000 euro. Pagine del Monfalconese, il nuovo centro rifiuti sorgerà in via Bagni con 2.200.000 euro del PNRR. Sarà attivo nel 2025 e sostituirà quello di via Consiglio d'Europa, che sarà smobilitato. La farmacia comunale di Monfalcone avvia il servizio di consegna dei farmaci a casa, dedicato a persone disabili o malate. Le sanzioni inflitte dalla polizia stradale di Pordenone ad autobus e scuolabus, di cui vi abbiamo dato conto ieri, sono l'apertura del Messaggero Veneto nell'edizione di Pordenone, che si occupa anche delle polemiche sulla raccolta differenziata cittadina della plastica, considerata da alcuni come insufficiente. Altro servizio, quello sulle aspettative dei sindaci dei comuni toccati dalla Pontebbana, preoccupati dall'aumento del traffico che potrebbe emergere con il pieno regime della pedemontana veneta. Spazio poi anche all'allargamento della videosorveglianza in 13 comuni della provincia. Da Cordenons, l'aggressione di un Rottweiler a un 60enne del posto, azzannato a volto, naso e orecchie. Anche il Gazzettino nell'edizione di Pordenone apre sulle sanzioni agli autobus e poi in fotonotizia passa a ritrarre la folla al torneo di calcio Gallini. Da Polcenigo la scarsità di rospi e anfibi causa siccità. Da Caneva invece il bando di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione e abitazioni riferito al 2022. Le domande vanno presentate entro il 5 giugno. Sono state programmate dal 17 al 19 novembre le giornate della 20ª edizione del Premio Giornalistico Internazionale Marco Lucchetta, che riconosce inchieste e reportage su sofferenze e umiliazioni inflitte ai minori, non ultimo durante la guerra in Ucraina. Sarà Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia e volto storico del TG2, a presiedere la giuria del premio, istituito in memoria dei giornalisti Marco Lucchetta, Alessandro Sascha Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin, quest'ultimo assassinato a Mogadiscio insieme ad Ilaria Alpi. C'è tempo fino al 20 maggio per presentare le candidature al concorso. Da quest'anno sarà istituita una nuova sezione dedicata alla rotta balcanica, che verrà lanciata a giugno con un bando a parte e premiata il 28 gennaio 2024 nel 30° anniversario della strage di Mostar. Oggi su Rai 3 andrà in onda la rubrica di approfondimento della TGR, il settimanale. Eccone un'anticipazione. Torna il settimanale. In questa puntata, negli appartamenti devastati dal fuoco della Torre Antonini di Milano, tra oggetti bruciati e speranze di rientrare. Sole d'aprile e primi ombrelloni aperti sulle coste del Molise, obiettivo destagionalizzare. Bianchi e rossi, rosati e bollicine, novità e curiosità del Vinitaly. A Iglesias, il ritorno dopo la pandemia della processione pasquale dei misteri. L'arte antica del ventriloquo a Merano con Aiman e Daniele, finalisti a Dalla strada al palco di Rai 2. La scoperta di salite, borghi e castelli con la pedalata non competitiva Fiandre Varesino. Le fragole, l'oro rosso della Basilicata, primo produttore d'Italia. Oggi nel settimanale 12:25 Rai 3. Uno sguardo ai programmi radiofonici della nostra sede. Alle 11:30 a Biblos sarà ospite l'esploratore Alex Bellini, che presenta il suo libro Viaggio a Oblivia, perché dovremmo essere ecologisti ma non ci riusciamo. E poi con Marina Silvestri la riscoperta della Trieste di un tempo, raccontata dai personaggi del suo Miralegra appena riedito. Sono le 7:54 minuti, 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Tommaso Vinoni e da Mauro Ciccarelli. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cajazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.